sì. Sì, sì, sono io adesso. Parlo, non so chi era. Dai un controllo di segnale, Giulio. 7:30, dai, modulate. 7:30, modulate. Non è mai stato niente in confronto a prima, no, giù? Niente, il segnale è sempre quello. 7 portate fissa e 7:30 modulate. Ah, sono in zona negativa, la letto e parti. L'antenna è sempre quella, se non cambia l'antenna è sempre quella, oh, Daniele, per cui no, non è che può cambiare, no? Il discorso è sempre quello, l'antenna, comunque andiamo bene, ma gli assistenti. Che l'ho sollevata di un bel po' adesso, questa è un'altra antenna giù, questa è la Ringo. Sì, d'accordo, ma è sempre nel solito posto, sempre... E c'è la casa davanti, e quello, il problema è quello. Adesso è appello di tetto, diciamo, mancano 50 centimetri a superare il tetto. Vabbè, Ronaldo. Ronaldo, ma qua gioca di palla, è fortunato anche lui, accidenti, nell'escaldamento si è fortunato poco fa. E io ci andiamo, dai, così siamo pronti per Cagliari, intanto il Cagliari ha questo lunghiero pure in casa. Ciao Daniele, 5 dB in più hai fatto qua, Va bene, modulazione com'è, Clark? Ho cambiato anche il microfono. Una bomba, c'è tutto vicino, toccese. Gli ho preso quello della CTE, dai. Molto, molto meglio qua la radio. Adesso sei tu, però... l'attivazione non va. Guarda, sta andando sino alle 3 che stavo parlando con Pompugno. L'ho spenta perché devo fare. Ho sollevato l'antenna, sono salito la mamma. E l'ho riaccesa, morta. Ah, la salita lucida, niente, andava benissimo. Sì, 9:10 abbondante, la radio 5 perfetta. Vai giù. Ok. Stavo qui, segnale, è rimasto sempre quello. Per cui non ho aumentato di segnale sempre 7. La radio sì che l'ha aumentata, quello sì. Però segnale c'è già. C'è la casa, la davanti all'antenna, c'è la casa, adesso la mia parte. Per cui Daniele, no, non può aumentare, dai. Sul tetto, vabbè, sul tetto allora già aumenta di sicuro. Ma nel buongiorno così. C'è la casa che impedisce di adeguare bene il segnale della misura. Comunque andiamo bene, dai, gli assistenti. Pensate che si senta il radio. Che radio si senta, per cui va bene. Perlomeno, poi che non c'è molto coerente, va bene così. Ma io lo vedo, capito, a me è la vista ottica di arrivare a cielo davanti, quindi è per quello che ha aumentato. Adesso andiamo a vederla, che inizia alle 6. Vi toccaglio di ieri, adesso lo fa un po' vado a vedere, ma intanto siamo qua a casa stasera, chiamiamoli, non sta bene, e quindi siamo a domo. Va bene, cosa stavo dicendo? Quindi, e chi è l'attacco? Ken? Mando chi c'è poi? Non lo so. Ho sentito adesso, ma sono acceso, l'ho sentito sul Sky, che Dybala si era accusato uno strappo, un tiramento, cosa è, nel riscaldamento, alla cuccia, al vetro della cuccia, per cui non può giocare. E al quarto posto sembra che metta Bentancur. Disarmo, a me che è un attacco, non mi va proprio, io mentre ci disarmo, vabbè, vediamo cosa fa con l'Empoli, non lo sottovaluti molto l'Empoli, perché è probabile che buchi a buio in casa, capito? Vabbè, vediamo, dopo vado a vederla. Ok, ho visto la foto, la mia, già va bene così, ma lasciala stare così, non sta pintata, già, l'importante che ti sentano, vai, il più lontano intanto che modula è Cosomi, è arrivarvi a Porto Torres ieri, così com'era, adesso dovreste arrivare meglio, il più lontano è Cosomi, è Giulio, quindi così siamo tutti qua. Va bene. Adesso sto accorgendo perché non posso fare altro, sono arrivato già al massimo qua, ci vuole altri 2 metri di palo da mettere sotto e sollevare ancora di più, allora sì. Io poi ci vuole 2 metri di palo, non si mettono, non ne sarà quello il problema, ho fatto 36-31, ho già il segnale qua aumentato da ieri a oggi. La radio è super 5, va bene, meglio di quella di ieri. microfono suo ci voleva qua, crack. E quello lì suo, Non è l'originale Midland, è sempre un Midland, ma l'altro, quello nero. Va bene, va bene. Ottimo per la truppa, va bene. E tutta la guardi, Giulio, la partita. Ma cosa? Avanti, G. Buona, buona, buona, guarda che segnale. Maccio, Santiago 7. Guarda, vedere. Adesso non devi parlare, tocca. Guarda, Croce, va meglio così? Sì, così è il tuo. No, domani mi deciderò a fare l'autopiello. Va bene, va bene, già stai andando. KK. Chi è Massimiliano? Ehi, non mi senti, Daniele? K Rogero, a Voglia. No, non stavo riconoscendo la voce adesso. Ah, positivo, positivo. Va bene, va bene. Guarda, ci ha cambiato adesso, Massimiliano. Cosa ti sembra? Quasi 9, per esempio. Ma la rimodulazione com'è? Buonissima, cosa hai fatto? Cambiato microfono. La salcuba, visto dai. Allora, tra la GBC l'ho preso stamattina, ce li ha. E quasi cosa c'hai? Midland? K, quello nero. Ascolta, non penso per i fatti tuoi, quanto ti hanno fatto pagare? 15. Buono, buono, diciamo, vado a prendermelo, mi sa. Lunedì mi sa che faccio la scappata e me ne prendo uno. Va bene, perché sono andato in teoria a prendere l'antenna, non ce l'avevo, mi sono preso il microfono. Ascolta, ma c'è col connettore te l'ha dato. E allora, cra, pronto all'uso, ma fai addirittura dalla scatola ad attaccarlo. Sì, così lo prendo anch'io per il dato, allora. Se non ce n'è il microfono, ogni volta tocca fare battaglia all'attaccatore contro l'attaccatore. Io pensavo non ce l'avesse, invece ce l'ha. Vabbè, e fra forse 15 giorni arriverà l'energy. L'energy ti hai preso? Quella vorrei mettere, poi vediamo. Cioè, va bene. Va bene sì, almeno una 50 anni, è leggera. Visto che tu c'hai questo problema, guarda che l'energy esce bene. Poi l'abbiamo messa a casa di Natalino, Claudio, e usciva la bomba. Cava, se non l'avesse venduta l'antenna. Quella è nuova, allora ci avrà modulato qua, un paio di mesi, forse neanche. Basta contattarlo, lo contatti se te la vende. Un problema a fare a Nira che si antenna va. Ha in cazzo l'avete messa. Ha in cazzo, la facciata non è facile scendere, no? Non è neanche difficile, però ci vuole almeno 3-4 persone a scendere con l'antenna. Ma gli scende il danno. Ma va a dirgli se te la vende. Io le ho chiesto se la parte non la vende, non ne ha, non vende nulla. E allora vuol dire che la c'è, lasciagliela stare. Io vi dico. Vabbè. E allora Massimiliano. E allora, vabbè, stavo guardando il Gran Premio della Formula 1. Adesso fra un po' inizia la MotoGP. E adesso fra un po' inizia la Juventus, c'è anche. Juventus Empoli. Sì, un po' stacco, ma la guarda una partita. Va bene, va bene. Niente. Stamattina ho letto quella roba là. No, stasera non la può usare perché non può provare perché è Urbia. Domani facciamo le prove, vediamo se le piace. Va bene, se non le piace me la ritorno. Andavè. Vabbè. Niente, se ti serve qualche microfono MB+4, MB+5, per usarlo così chiuso, ce li abbiamo attacco baratto. Ce l'ho su, Cla, ce l'ho su, mi sono indicato in controllo se ci manca la capsula. Beh, se ci manca la capsula, la buona è una di quelle piccoline di citofono, cioè funzionano bene, però per caso ti serva, capito? Non c'è problema. Cava, domani controllo se me ne ricordo. Massimiliano c'è la collezione dei microfoni. Se può essere qualcuno, qualche strumento, l'osmetro, capito? L'osmetro vattimetro, tutte cose, capito? Cava, ma in quello ce l'ho, c'ho un rosmetro accordatore. Lo fa rosmetro e vattimetro. Va bene. Se serve qualcosa, abbiamo una scatola pronta per allora la polmonia a pattella, non voglio andare. No, ragazzi, no, sono andato a farmi due commissioni, a prendere un po' le pellet e roba del genere, no? No, oggi a pattella non ci sono andato, oggi era da andare però, purtroppo c'era da fare altro. E niente, no, mi sono attaccato le due luci dalla camera, là, e gliel'ho prese ieri, quelle a LED, e gliel'ho messe. Domani mattina mi piazza la porta, ma tantone. Ricordati, domani mattina facciamo con l'operazione, veramente a Dio. Veramente a Dio, non lo leggi qua, devo scendere lì, se mi dici adesso. Lascio per fare la ragno, non tolgo. Va bene, allora. No, non te lo dico, va, ti ho aggiunto gli agua che ti avrà. Sì, vabbè. Ok. Allora ce lo preparo da quello fuori. E così lo facciamo. Va bene. Va bene, va bene. Io. Se un paio mi ascolti, Daniel, ma le modifiche adesso attaccate ce le hai. Si sono disattivate. Poco fa che stavo parlando con Antonello, l'ho spenta, l'ho riaccesa, dopo un po' non riesco più a fare riandare. Stamattina come l'ho accesa per attaccare il microfono, in automatico sono partite. Fatele mettere dirette ad Antonello se ci riesce. Sono dirette, perché quel pezzo dove le passavo la calavita mi è rimasto in mano l'altro giorno, capito? Cioè, era già mezzo andato. Adesso sto andando col filo diretto, capito? Li ho saldati tutti e due assieme. E non va. E va quando ne ha voglia, però funziona tutto, perché se io per dire li stacco e li riattacco, si sente che sta funzionando tutto, però il parlascolto e il bip non stanno andando, e non so che ma la sorte possa essere. Sì, magari devo scaldare un poco, fallo lo fuoco sotto. Dentro la seminiera, bongo, 5 minuti. Fatela fuori con la radio per tenere un'altra, Daniel, una radio un po' più serietta, no? Se c'è FM, bande. Ehi, adesso vediamo, perché questa in teoria è la stare nel fuoristrada, capito? Che c'è va tutto, non da stare qua alla stazione fissa. Però adesso è diventata fissa perché non ne ho altre, provvisoriamente, va bene. Mi cavolo, ne ha qualche dura lì. Poi piano piano già ci riattrezziamo, vediamo se riusciamo a ricombinare di nuovo. Cosa da dire, stavo preparando sta? Ma Massimiliano, cosa hai detto? No, Massimiliano ha detto di prendere una radio un po' più seriota e vendere questa. La voce l'abbiamo anche, una radio più seria di quella. Capito? No, 87 Colt. Bella, bella, bella. Cava, già va bene, adesso vediamo. Prima sistemiamo questa e poi vediamo se riusciamo a smerciarla. Prima quella la devi mettere a posto a venderla, se no non ti occupare già nessuno così. Già lo so Massimiliano, già lo so. Infatti ho detto prima la mettiamo a posto e poi vediamo cosa riusciamo a fare. No, anche perché non c'ha bande, no, cioè c'ha giusto i 120 canali e basta, non va nulla, non c'è FM, non c'è banda laterale, non c'è niente, capito? Vabbè, canto girare chi c'è radio. Cosa? Canto girare chi c'è radio. Quella radio messa a posto così, la radio modificata appena, colte, una da 48 come il suo, ci vale 200 euro. Vabbè, io te la valuto 150. Me ne dai altri 150, Dani. Me ne va. Quanto classe che non ho capito? 150? La 48 più 150 euro più l'87, perfetto, modificato. Che vale 400 euro. Vediamo, là, si può fare. Vedi tu, fai te, camomilla. Capito? La ritiro io. Poi la mando a mettere a posto e poi si riprende. Di più non ti posso dare. Perché 87 è una bella bestiolina, Gara, vediamo qua, vediamo, cosa si può fare? Non fammi sapere, già lo sai che per te non ci sono problemi, forse è stata un'altra, no, ma a te già te lo faccio, vai. Allora, ma ci vediamo, terminare già. E il titinaro, nulla, me, adesso sto aspettando che finisca il calamattrice a tenersi la roba, Daniela, poi devo scendere giù a Porto Torres che vuoi comprare dei brillanti per il vestito di Gaia che il giorno 17 balla al palazzetto dello sport. Cazzo, ci sono 6.000 persone. Ehi, a quello del coso Valendas? Via, via. C'è la Titov, la chita di ballano sotto le stelle. No, ballano sotto le stelle, quel programma di Rai 1. E io l'avrei fatto ballare sopra le stelle, non so quanto mi sarei divertito. E la Titona l'avrei messa a tappettino. Sì, Vegito, c'è la scuola di Clini, c'è gente un po' importante, no? Sì, ballare lì, quindi alle 2 dobbiamo essere lì, finisce alle 8, darà sì da mettere sul palazzetto, mamma mia, come sto. Mamma mia, non ti invidiano, è un bel casino, cioè. Io l'anno scorso, vabbè, un anno, lasciamo ricorso l'anno scorso, un anno l'hanno fatto, in Siburia passati a Calcetti, io ho entrato da lì per andare a prendermi caffè al bar, ho dovuto lasciare la macchina giù dove c'è la Torres, salì a piedi, che non aveva manco un buco, Pulma contro Pulma, vigili urbani, e tutto era una bella manifestazione, no, non mi sta molto simpatica, mi sa Carducci, ma ti dice, la Tittova è un po' più simpatica, però. È da blu più, te l'ho detto, l'avrei fatta ballare sopra le stelle, perché sotto non ci sta neanche la Juga Fegata giù. Avanti Daniel. Aspetta, sto chiuso così, sì. Vabbè, vedi, giri, hola, funziona lei, così? Sì. Oh, che strano, secondo me c'è qualche cazzata, qualche mazza, qualche cosa che non sta andando. Sì, vabbè, facciamo controllare, non è un problema. Tu, se decidi, dimmelo, così non hai problemi di niente. Ti metti quella, c'ha più watt di quella lì, c'è una radio più seria, c'ha le bande laterali, c'ha più canali, c'ha più tutto, capito? Era una radio più seria di quella. E così si è a posto. Gava, già va bene. Cappa. C'è un capo di Bugnetta brutto. Sì, qua io quando rientro mi prendo il cacciavite e mi controllo questo smitter perché non funziona. Adesso è fermo a 9.25, vado lo contro. Poi dai, un colpetto e se ne scende, così è. No, adesso è rimasto fisso, sicuramente c'è qualcosina da rivedere, no? E così era anche questo, si era bloccato e poi si è ripreso. E cosa? Però il bipi non c'è, c'è solo l'eco. Adesso è... vedi, guarda, così ci dovrebbe essere... Hola, l'eco, giusto? Sì, ma non c'è il bip. Adesso lo sto chiudendo io. Il bip lo sento io in lontananza, come se l'avessi abbassato. Qualche stronzata lì, diciamo, ci sono mani dentro per fare qualche cosetta e rinducare, devi dire, non dobbiamo rinducare. Oh, ioia. E vabbè, cosa vuoi che ti dica, cla? Io così l'ho presa, così l'ho tenuta per tempo, l'ho usata, sino a quando non l'ho riaccesa e l'ho trovata in queste condizioni. Ma tu quella radio non l'hai comprata così, però. Cioè, sì, cioè, così. Perché prima di prenderla quella radio funzionava un po' discretamente, capito? E poi, oltre di quello che te l'ha venduta, ci ha messo le mani anche un'altra persona lì dentro, giusto? Non lo so, io questa non l'ha toccata a nessuno, cioè da quando ce l'ho io non l'ha data mai a nessuno a controllare. Allora me l'ha data Daniele, sono andato, l'ho preso e l'ho piazzata in macchina, boh, finito. Ah, ok. Poi non l'ha vista nessuno, zero e riporto zero. L'ho tolta la macchina, ma l'ho veduta l'altro fuori strada e l'ho tenuta a casa, boh, finito. Sì, no, sicuramente non sei tu che l'ha. Forse prima di darla a te, capito, l'autrice ha fatto qualche ritocco che non doveva fare. Io mi ricordo che un tempo questa radio, quando c'era Daniele, Mi si era bruciata. Aveva invertito il filo, non so cosa era successo, però si era bruciata, non so che cosa. L'aveva sistemata e l'ha tenuta per altro po' e poi l'ha venduta. So tutto, allora perché a me se mi interessava, io invece avevo già venduto la mia. Capito? No, ma 48 non mi interessa. Non mi interessa la 48. La radio così, stracco baratto, non c'è niente. Va bene. Quindi, ascolta una signora, stavo dicendo, il lampadario gli hai attaccato a Gaia? Non li ho messo lampadari, ho messo gli applique. Dove? Gli angoli o dove? Dove erano prima? Sì, non me lo ricordo. Vabbè, non si vede nella foto. Non mi ricordo, vabbè. Abbiamo guardato la foto. Quelli perché questi hanno un trasformatore per fare da 220 a 18 watt, cazzo che mi aumenta il QRM e non sento addirittura ad Daniele, ecco perché ho le luci spente in questa camera, se accendo le luci a Daniele non lo sento più. Capita, io poco fa sentivo a Giulio che diceva mi sta arrivando così, ma non capivo con chi stava parlando. Sono alzato, ho spento le luci e ho sentito a te. Al bugio. Avvirumi. Lo so, Massimiliano, succede perché fa il rientro, capito? Lo so. Cosa vuoi ti dico? C'hanno un trasformatorino, capito, queste luci dentro. Non so, fa qualcosa, cosa ne so. Sì, accendo la luce e non ti sento più. Mi aumenta il QRM. Tu pensa che io a casa mi sono ricavato una specie di stanza col soppalco, una stanza mia è questa, l'ho fatta a soppalco. E sono lì su, e sotto gli ho messo i faretti lo stesso, gli ho fatto le lastre di legno, e sotto gli ho attaccato, gli ho fatto la struttura messo il cartongesso e l'ho incassato i faretti. E in pratica sono sopra, cioè sotto c'ho il trasformatore dei faretti, poi rientro una mano e fa. Io non voglio i faretti, non mi solo che sono quelli ad alto consumo, devo cambiare, trovare lampadine a basso consumo, infatti non li accendo mai, però sono molto belli, ne avevo messi proprio due sulla parete per illuminare le radio e una in fondo per tenere accesa quando stavo parlando, cazzo non è pubblicarli, devo trovare lampadine a basso consumo con questo attacco però. Io c'ho quelle alogene qua, che c'hanno, sono una spinetta in pratica. Dove le hai prese? La mia non è alogena, la mia è proprio affaretto. Però c'hanno quella spinettina, dove le hai prese quelle? Sì, qua, questi io ce li ho anni, cioè avevo in cameretta prima. Adesso le ho messe qua giù nel cartongesso. Alla Elcom le avevamo prese, ma sto parlando, dopo 10-15 anni fa. Anch'io questi ho preso lei, però non sono a basso consumo, capito? Strada non va, quindi non li accendo quasi mai, li accendo se devo fare un lavoro e non ci vedo. Però mi interessavano, capito? Con quell'attacco lì a basso consumo, anche a LED. Allora sì, allora non capo lavoro, no, così non li accendo. Questo sì, mi scalda il legno del soppalco a me, eppure spazio c'è, sai, vabbè che questo pezzo di andito, però ne fanno un po' più acceso del solito, mi fanno scaldare il legno. Avete parlato in due, no, mi sono attaccati a parete, tassellati a parete, fatti bene, così hai detto Massimiliano? Io non ho parlato. E chi è? Non so. C'era un altro sottolaniere, chi è? Non so, stavo... ho abbassato il volume, stavo ascoltando un messaggio. Va bene. Io ecco la onda in campagna. Ma siamo voluti andare perché c'è una che non sta bene. Se sono preso a fare il cazzo, la vedo cabulo, ma è cazzo. E va bene, e domani è già domenica. Sì, ma ripassi a tutto in Finlandia, che cazzo di tempo, non passa di tutto, vabbè. Va bene, ragazzi. aspettare che io mi sposto un attimo. Devo andare a prendere il gasolio per la stufa, per i vecchietti. Vabbè, Cecilia, ci sentiamo dopo. Dopo questo è il radio, vai. Ci sentiamo dopo. Ci aggiorniamo dopo al telefono. Ok, dai, ciao Daniele, buona serata, buon divertimento. A dopo, allora, dai. Vado a vedere. Lucio Fettini in partita, ciao, stasera qua dentro, non è nella Banuccia. Dai, ci aggiorniamo dopo, io lascio tutto acceso. Ciao. Ehi, Acla, dai, sei qui, ci sentiamo tra un po'. Buon proseguimento, dai, a dopo. Ciao Massimiliano. Ciao. Ciao, dai, non lascio tutto acceso, non spengo niente, ci sentiamo dopo. Gala. Che schifo. Vabbè, Ronaldo. Hola? Ho benissimo? Sì, ciao Cla. Vabbè, stavamo un po' di TV, un po' di sport, però finito. È il primo tempo. Mi sono seduto un attimo qua. E c'era Massimiliano, Daniele, Giulio, sicuramente stavano la partita. Sicuramente qualcuno si guarda la partita. Stasera cosa gioca la Juve? E la Juventus sono in emergenza, un turnover sta facendo contro l'Empoli, sono 0-0. E c'è un sacco di impegni importanti la Juventus. Speriamo non pecchia comunque. E se pesi, a me intanto, Piscione non mi dà la Juventus. No. Sei, me l'ho immaginata che giocavo la Juve, perché ho visto su Facebook mio cognato che era già allo stadio. A Lucia. Ah, vabbè, sì, quello che hai a Torino. Ma una partita spenta, una partita morta. Non va nulla. Ti ripeto, una squadra d'emergenza, la turnover, i titolari che ci hanno. Forse ricevere i biazzi. Non voglio, sono a casa stasera. A casa. Senta, fai anche io, non ho voglia di andare da nessuna parte. Sono cognati andando. Mi sto rivestendo le scale esterne, la scala esterna. Cazzo, ma un casino, voglio. Sono cavalieri, ma quando travagliavo quante va? Quella esterna, sì, ho capito. Perché non l'avevi finita ancora? No, non l'avevo mai toccata quella. Adesso io sono la ringhiera che c'era di ferro e mi ho fatto il parapetto tutto in mattoni, con le bucate. Mi ho fatto. Adesso ho aggiunto un gattravo, ha aggiustato tutte le scaline all'entrata e adesso devo rivestire in mano. Non via me, lascia verde. Uiaia. No, sono riposo. Ho lavorato lo stesso anch'io, cantiere, basta. Oggi vamo dalla campagna, però ci vogliono dire che non si sente bene, allora poi ci vogliamo a casa qua. Per fare così. Infatti sdraiata in divano, guardando la televisione. Una mattina vediamo cosa fare, oggi ci riposiamo, dopo mia figlia è lavoro, c'è le 10, quindi non va di nulla la ragione. Ecco, io poco fa mi stavo controllando, quel tarno è tutto ecco, non so come ancora il diavolo è, non so come ancora è bello a aggiustarlo. E tutto a un colpo non esce più, non esce. La capsula è buona, ho controllato tutti i fili col tester, ma pare ne vuole. La capsula è buona, e come hai fatto a controllare la capsula? L'hai messa da un'altra parte, o col tester positivo e negativo suona? Esatto, e in più l'ho messa nel... ho tolto la capsula dall'MB4, l'ho agganciata lì e funziona perfettamente, esce, è evidente che non è la capsula. io c'avevo quello di Massimiliano, lo stesso, ero un sacco di tempo fermo, non usciva, non si a posto. C'erano sotto delle lamelline che non toccavano, poi erano tutte ossidate, le tutte pulite con la terra, le messe in linea bene, l'ho provato, funziona benissimo, prima innescava, a volte usciva, a volte usciva, funziona bene. E lì c'è quel circuitino, bisogna vedere se non è partita qualche cosa. Ecco, bene, vabbè. Pazienza vuol dire che rimane fermo. Cosa ci vuoi fare? Al limite viene il biglionato e c'ho anche la capocciolata del cambio. Aspetta, rilassati, non ti sia fruttato l'attacco della pila, della batteria, mi metto a fruttare da me. Visto che nell'investimento c'è nell'attacco c'è quell'investimento in plastica, quindi non si è attaccato un virus. Me l'ho messo nuovo quello, nuovo. E disandato quello là e messo quello, non funziona lo stesso. Capo, non funziona lo stesso. Infatti io pensavo che era quello. Comprato, messo nuovo, ne ho anche uno, altri due ne ho delle cambi anche, nuovi. Non è che non abbia, non c'è niente lì dentro, con i tuffi. Bisogna pintarti, controllarlo per bene. Io con la macchina stessa ho cambiato il torrettino per l'alimentazione della batteria e poi ho messo a posto le lamelle, tutto pulito. Ho iniziato a funzionare bene, ho passato gli spray. Sono uscito nuovo, c'è altro che fuori, che funziona bene, però inizialmente non funzionava, era tutto gracchiava, non agganciava, capito? Ho capito, no, il mio funzionava benissimo, era una bomba, era cazzo, nuovo, me l'aveva venduto coso questo, Gian Maria, me l'aveva venduto, e usciva che era una meraviglia, poi l'ho messo da parte, l'ho messo, che brigato, boh! Non è proprio dubbio. Cos'è quello vero? Il pane più 3B? No, è l'altro, quello grigio. Ah, quello grigio è... Quello grigio... lì bisogna... Quello è macchina... Dietro una busta, non se la sa, se mi chiami e lo controllo io. Ti faccio più pazienza anche sul periodo. No, io mi andato quando ne ho voglia, mi poco fa l'ho preso in mano, però senza, ho tolto la capsula fuori di nuovo, io ho controllato i cavi a vedere se erano interrotti, nulla, tutti i cavi perfetti, tutti quelli che ho toccato sono tutti perfetti. Hai seguito i cavi dalla capsula al piantone? Sì, dalla capsula sotto, no? dentro il microfono. Da dove va agganciato, allora va alle lamelle e alla scheda. Il cavo spiralato ce l'hai? Lo spiralato? Sì, è spiralato, quello lì, quello è buono, l'ho misurato, anche quello è buono, suonano tutti e quattro suonano. Strano. E allora lì può essere partito qualcosa dell'alimentazione del microfono. Ho controllato, fatto ripeto, quello che ho messo a posto Massimiliano, usciva, però era tutto gracchiante, tutto usciva un bel male. Poi c'erano le lamelle che praticamente non toccavano, tante sporche, tutto lucidato bene con la tela fine. Poi, boh, non mi ricordo comunque. Ah, gli ho cambiato il capo della rotazione della batteria. Perché era vecchio. Ora si è a posto. Quello se non funziona per niente, bisogna controllarlo. Sì, noi la potenza al limite con il biglionato. Non è quello il problema. Se poi se becco qualcuno che se ne intende, io no. Ehi, qualcuno se ne intende, già pochi. Magari faccio di più danno, tenere in chili, con calma, si fa, si controlla, capito? L'inigua ci può essere che non fa uscire quel filo, Rosso e Nero alimenta la batteria, arrivando al bel circuitino di alimentazione, quello piccolino, annuta, microfono così, c'ha più roba l'MB più 5, che dici? Sì, infatti, è vero, visto, vabbè. L'importante è che c'è questo. Se no, ma l'importante è che c'è lì, c'è la voi. Divulgato tutto, poi ho finito di montare baracchini, provare, prove contro prove. Tutto rimesso in ordine, tutto dentro le scatole, boh, basta, attribuiti lì. La casa d'ora piena di baracchini, mette le balle. Togli tutto, io uso questo e basta, no, non mi fai niente nei baracchini. Già rimane in disordine, però sono tutta la soddisfazione che li ho controllati, i fatti sono tutti a posto, capito? Adesso quando salgo a Sassari passo da Antonello, bravissimo, gli do il Connex, se me lo mette a chi, questo l'avevo prestato per controllarlo, sono detto, per mettere in linea un'altra radio, perché erano uguali, e invece la sigla quello che ci ha visto. E mi ha mosso più fitte di me ed esce un po' fuori a mettermi le linee, Antonello, e mi pare che ribusso il burro del microfono. Prova a portarglielo, perché è sapenta. Non ricordo che si già lo conosce, lui c'era uguale, mi sembra. Quindi, no, io tra dirti una balla che possa fare quei lavori, quelle cose, non le conosco, non le so fare, no. Appuntarmi un microfono, fare una regolazione così, già mi metto a fare, però tra l'altro mi si è inchiodato il potere di scambio a me di questo, cioè, ho visto dove era tutto, però di salvarlo, risalvarlo, no, provata me la sono fatta fare, Gio Bavardo, me l'ha fatta mio fratello di cognato di Massimiliano, ha detto che è collega di Vittorio, va, l'ha fatta lui, no, non tocco di queste cose, perché capo, non sei capace, ci vuole salvatore d'aria, ci vuole aspirastagno, ci vuole tutto, ci vuole vista, io non faccio nulla, quindi, allora me le faccio fare, se puoi, devo fare un connettore, se ci riesco lo faccio io, se no mi ando sempre da Andrea, non credo che lo mi fa lui. Sì. No, io i salvatori già ce li ho, figuri. Ce li ho, ne ho due. Io ho anche cosa dell'aria calda. E quello lo piace tutto. Solo che a volte secondo cose non li vedi. Non devo dire. Boh. Se ho baciato un coso, mi sono le pelle, è vero, perché sono grandi. A saldare un filo, qualcosa, dovevo mettere gli occhiali di mia povera suocera, che erano i grossi, e poi mi fanno male gli occhi, ma non ti bari mangi i bonetti, ma se abbia il tuo, non mi interessa. Vabbè, parlo, volevo faccio fare le cose, intanto, quando non hai l'attrezzatura e fai su buona pasticcia, non fa affatto, assolutamente, capito, e quindi niente. Vabbè, c'è la Daniele, c'è uscito, 5 dB ho aumentato qua, da 9.5 a 9.10 è passato, ha tirato un po' più sull'antenna. Capo, l'ho sentito, abbiamo parlato stasera, prima, e qua mi arriva, sì, mi arriva, e la radio bella chiara, e l'ascolto meglio di prima. Prima ti arrivava 5, quanto arrivava? Sempre 6 era. No, prima mi arrivava 4-5 modulati, ma 4 e mezzo modulati, poi adesso mi arriva bene, cioè arriva 6, però la radio è buonissima. Sì, perché ha cambiato anche il microfono, quindi quella 9.5 e 9.10 adesso, va bene. Sì, ascolta anche Eugenio, Portose, arriva da Massimiliano, arriva a Santiago 9 da Massimiliano. A giugno gli arriva 7, 8, va bene, tanti più lontani sono loro, poi tu, con il resto per fare due chiacchiere, ho detto lascia la cuscia a futtidini, ha detto no, me la metti altri due metri, la fa salire ancora di più, capito? E poi c'è un'altra CBC, c'è quel microfono della Midland Neri, a 15 euro, lui quello lì ha messo. E se quasi vedi, vado, me lo compro uno per il Vatican, non ce n'è più. Ce l'ho io, nero della Midland, nuovo, me l'avevano, un camionista me l'aveva regalato con un baracchino piccolino, c'era anche il microfono, nuovo, ce l'ho qua, con l'attacco Midland. Infatti lo stavo provando al Midland mio, invece non va bene, deve essere diverso l'attacco, il connettore, là, come... Io gli inutili glielo metto lì, glielo metto, che non ne avevo microfono in quel micro. Guarda, se va importante prendi il rosso, lo metti a posto del nero, il nero lo metti a posto del rosso. Capito? Io i miei così sono, i miei così. Ho invertito io per il 48 lo stesso. Capito? E va bene. Lo inverti il filo e si è a posto e te lo metti lì perché c'è una buona, è un dinamico, c'è una buona capsula. Ehi capo, adesso me ne vanno a portare un paio, due o tre portatili solo, due e un, anzi, no, sono due e un, e uno mi sembra 27 e un 48 me ne vanno a portare. Un cugino di mia moglie che è morto e il fratello non sa cosa farsi, ma tu dice quando è metto il gruppo dice te li do. Ah, ma sempre da Torino o qua in Sardegna? O qua vicino a noi abita, 500 metri da me. E se in Italia ci hai portato per lavoro? No, lui era un CB, era no, si, non so, si stava scrivendo per andare a prendere la patente e poi invece è musso. Anzi, e ci vedo con le balle. Mi aveva un bel po' di... stava già cominciando a comprare il radio, stava cominciando, invece Macunari, meno male che non ha preso niente da base ancora, non aveva preso, che aveva l'intenzione di prendersi la patente, però aveva l'intenzione di prendersi dopo la patente. Va bene, dai, Claudio, io devo uscire, che mia moglie, se no, sono il culo di casino, che già muovo niente. Ci sentiamo, che devo uscire. Buon proseguo, dai. Ehi, no, non ti ho risposto, vero? È un ascolto, anche adesso vado a vedermi. Ho proprio la partita, dai. Ciao, Fra, già ci aggiorniamo, lascio il acceso, ciao. Ehi, ciao, ciao. Attento di bara. Ehi, attento Ken, manco male la posto, sennò la battita la bestia. Non lo sopporto più io questo allenatore, non lo sopporto più, non è possibile. Quei giocatori e non dimentica. Il Lubonger è un cazzone, Lubonger, a sti cazzi. È andata bene, anche perché il Napoli si può avvicinare, i tre punti servono. Non so cosa dirti, guarda me. Devo ancora bruciare Ugani perché stavo guardando, proprio ho detto questa è partita persa. Meno male ha fatto questo cambio eccezionale, poi è entrato Spinazzola. Non puoi lasciare in panchina, non puoi. Cioè vai a Mago che in questo periodo non è in forma, deve mettere un attaccante veloce, giovane, hai visto, appena entrato Catà. È al momento che raddoppiava anche. È stato bravo il portiere a chiuderlo, però c'era anche il secondo, sempre fatto da lui. Non è possibile che questo allenatore possa essere allenatore della Juve. Questo qui è un asino, nel senso della parola, è presuntuoso, è guasto, proprio guasto, veramente. Allora, l'ha fatto perdere tutta la tramontana, l'ha fatto perdere. L'orientamento l'ha fatto così. L'orientamento, non so, è andata bene, i tre punti ce li abbiamo portati a casa, adesso se il Napoli non vince contro la Roma, mi pare sia Roma-Napoli, mi pare, non mi ricordo, il campionato è finito, se si avvicina poi si è finito lo stesso, però deve vincere a Cagliari ha dimostrato che c'è, fatto una bella partita contro Chievo, Cagliari. Cagliari è in forma, altro che. E martedì non ci sarà nemmeno di bala. No, non è possibile. Non è possibile, guarda, che si possa accettare un allenatore che gioca così. Ma io vuole sapere cos'è che devono recuperare questi giocatori, che sono sempre senza fare niente tutta la vita, per dare quattro calci al pallone. Ma non è possibile che uno possa dire è fatto, ma stanco di rosa. Ma come ha giocato Chiellini, se no? Ce l'avevo voluto vedere a rogare con cazzo adesso. O con Cancelo in difesa. Ah, io. Meno male ha giocato Chiellini. Meno male ha giocato Chiellini. Vabbè, Bonucci. Non so perché non ha giocato. Cosa viene a fotti di Dybala? Contro il Cagliari gioca a Ken. Non ce n'è problema. Non ci sarà Ronaldo, sicuramente. Però c'è Ken, quindi io ci tengo molto a questo ragazzo perché è giovane, sta dimostrando veramente di avere una forza micidiale. Eppure è anche in un momento buono, è un momento questo buonissimo per quel ragazzino, intanto perché gioca con grande entusiasmo, con grande impegno. Eppure è il momento buono, che devo dire che è fortunato, è fortunato anche, oltre al fatto che sa giocare, perché ha anche una buona visione di gioco, e lo vediamo sempre, e il pallone se lo cerca, e non è come altri giocatori che aspettano il pallone, questo se lo cerca addirittura. Mandzukic questa volta non c'è proprio, è proprio, è finito. Quest'anno mando qui c'è finito, non penso che si possa riprendere, non ha più una voglia forse, o magari la voglia ce l'avrà anche, però non ha la forza più di poter fare, di poter essere il giocatore che era prima, non ce la fa più. Qualcosa è successo, non lo so, non è un po' spento, cioè quel gol che... Quando ho fatto di testa, lui soprattutto che sa segnare anche bene di testa, lo qui in alto cosa. Meno male, meritava il pareggio l'Empoli, se no la vittoria, il primo tempo ci ha schiacciato di brutto. Fortunatamente è entrato Spinazzola e Ken, hanno un po' aggiustato la partita, però si vede quando sono i titolari, Giulio, si vede. Quando un attacco manca un elemento come Ronaldo che c'è lì e te la butta dentro, adesso questo ragazzino lo sta sostituendo bene, però a me a questo punto di Dybala me ne ha fatto più nuda, se Ken prende il posto di Dybala da titolare, intanto Dybala va via, mi tranquillo che va via, stavo leggendo, ce n'è un bel in partenza, un bel in partenza ce n'è della Juve. Sì, ma anch'io penso che quest'anno lo vende sicuramente, perché non deve vendere, se lo vuole vendere, deve vendere adesso, perché non vende niente, perché sta sempre calando, non te ne accorgi che sempre, tutte le partite è sempre peggio, non è possibile, non lo so questo giocatore che cosa ha avuto, che cosa ha, non te lo so dire, che ha appena 25 anni, sei giovane. E se non giochi adesso, quando giochi? Quando ne hai 30, 32, 35, non è possibile. Non è quel campione che si era pensato che fosse, no, assolutamente no. Come hanno fatto a paragonarlo a Messi qualche anno fa, qualche tempo fa, quando aveva giocato contro il Real Madrid, che aveva fatto una tripletta, mi sembra che era con, no, non era contro il Real Madrid, insomma, aveva fatto una tripletta, subito paragonato a Messi, ma cosa Messi, ma le scarpe vecchie di Messi, di messa in campo da sole, senza l'uomo, giocherebbe meglio di Dybala, non è possibile, non è possibile. Giocatore, non lo so se l'ha rovinato l'allenatore, perché l'ha fatto giocare sempre dietro, l'ha fatto giocare, perché ti fanno giocare nella sua posizione, ma non è possibile, 7 milioni l'anno, da gli stipendi, 7 milioni e mezzo mi sembra che prende, sono 7 milioni, stiamo giocando in 10 tutte le volte che gioca nel bala, stiamo giocando in 10. Infatti lo vuole Sarri, lo vuole. A due punte gioca il Chelsea, a Higuain debba andare avanti. Dopo il Ceci, dopo le... sicuramente lui va, capito? Sicuramente lui va. Provaci pure che se lo giochi con Real Madrid, perché lo vuole anche Zidane. Non lo so, comunque in partenza, stavo leggendo, in partenza lui, in partenza Alessandro, in partenza che è l'altro centrocampista, non so se è Chedira, o Chedira aumenta ancora il barriere, qualcuno, forse uno dei due, in partenza l'altro, come si chiama, Rugani lo vuole, non dico, stavo leggendo, comunque un bel ce n'è in partenza. 4-5 sono in partenza, perché la Juve deve rinforzare sia il centrocampo che le fasce, no, non c'è niente da fare, i terzini sono troppo deboli, togli a Cancelo che fa anche da terzino, però Alessandro è diventato un cadavere la mano. Alessandro è un cadavere, Mandzukic che ha rinnovato però il contratto, anche Lugano ha rinnovato, non so io cosa volete dire, poveri giocatori. E poi io mi chiedo questo, ma quando mai questa squadra non ha degli allenatori atletici di quelli delle cose, ma fanno una partita e poi la seconda che fanno sono stanchi, ma quando mai? Come mai le altre squadre corrono sempre? Come mai le altre squadre riescono a fare 3-4 gol anche in una partita? E la Juve invece sempre questo sono insisto 1-0, 1-0, 1-0. È la fatica, sempre con tanta fatica, con tutti i grandi nomi che ha, è questo che mi dà la vita a me. Io posso capire, hai dei giocatori così, ma hai migliori giocatori, fai sempre 1-0, anche con le spavette che sono in retrocessione. Napoli non è una squadra, non gioca bene, però è chiaro che quando tu fai questi turnover così, perché sai che devi affrontare grandi squadre, sai che anche la Champions e ci tieni a farla in modo particolare, è chiaro che quei giocatori che rimangono in panchina non hanno l'affiatamento con quelli titolari, capito? Perché io ho visto certi sbagli, cioè Bentancur non stava giocando nel suo ruolo oggi, certi sbagli con Cancelo con Mandzukic, cioè, non ti trovi così quando sei arretrato un pochino indietro, sei troppo avanti, ha cambiato due volte, anche Bernabeschi ha visto, non ha fatto una grande partita, perché stava giocando a destra, poi l'ha spostato a sinistra, Bernabeschi può giocare da punta, è inutile che tu muri poi a destra e a sinistra, deve decidersi una volta per sempre, cosa vuole da questa squadra, cosa vuole da questi giocatori e che ruolo devono fare. Dybala, hai detto bene, Dybala, rovinato Allegri, perché? Perché non lo fa giocare come punta, è inutile tu me lo fai giocare arretrato dietro, non può giocare Dybala, Dybala deve giocare come punta, Dybala è basso, è una punta, deve stare dietro almeno a Ronaldo, se non avanti anche più minoreddo, hai capito? E invece l'ha rovinato lui, va via. Sì, non ti preoccupare che Cerugani ha rinnovato e Mario ti ci ha rinnovato, ne vedrete le belle a giugno, ne vedrete le belle, e ne è un bel ieri in partenza. La Juve vuole una squadra forte dove non deve avere problemi, né in Coppa, né in Champions, né in campionato, da nessuna parte, deve sempre vincere, deve essere la squadra italiana vincente, non deve perdere mai, devi vincere tutto. E Allegri ha dichiarato che lui vuole una squadra vincente, si è stufato di comprare giocatori che nell'arco dei due anni devono andare via dalla Juventus, perché non c'è, capito? No, ma è lui, io dico che è lui, secondo me, non è possibile, non mi fa motivare questi giocatori, io sono convinto che la squadra non è contenta per il gioco che gli fa fare, per il modo di gioco, è sbagliatissimo. Intanto la Juve dovrebbe fare sempre il 3-5-2 e non questo 4-3-3 o 4-4-2, ma non è possibile. La Juve con il giocatore che ha deve fare il 3-5-2 come ha sempre giocato il primo anno, ragazzi, che era fortissima. Abbiamo un centrocampo che è scadente e tu me fai giocare a tre. Ma non è possibile, perché devi chiudere il centrocampo, che il centrocampo è il motore della squadra. Non c'è niente da fare, non... speriamo che lo mandino via quest'anno, questo allenatore, perché a me mi fa veramente schifo, guarda. No, non posso più supportare, non lo sopporto più, guarda, è veramente un scadentissimo, guarda. Non è allenatore da Juve, non vince, oh. Se gioca così, figurati si può vincere la Coppa dei Campioni, ma quando mai? Ma vai, che va bene quel canocchiano, va bene, la Coppa, la Champions, va bene, con il canocchiano, va bene, suia. Lo so, comunque, adesso c'è il Cagliari, c'è il Milan, faccio, oggi c'è Sampdoria Milan, se il Milan passa a Genova sono cacchi, Giulio, se il Milan passa a Genova vuole il terzo posto assoluto, capito, quindi sì, tipo adesso ti portano, no? C'è il cane a portare ancora, capito, quindi ne vediamo le belle, Bobo, dai Giulio, ti saluto, che sono già le 8 e 5 passate, porto il cane e poi si cena. Grazie di due chiacchiere, infatti la chat è accesa, di Tomo mi chiama Giulio. Ci sentiamo domani, ok? Saluto anche tutti quelli che sono all'ascolto. Ciao Giulio. Ciao, a domani. Grazie a te, la chiacchieratina, dai. Ci sentiamo domani, ciao. Ciao, cazzo, sono già lutto ormai. Non è proprio nessuno. C'era Franco, ma è uscito anche lui. Ciao Giulio. Ok, sì, ciao.